ad incazzarti, poi diventi solo triste, poi diventi solo triste. E sei timida con gli altri, con la vita che hai davanti, ma alla fine quando parti, arrivi dove dici tu, arrivi dove dici tu. Le tue storie così lunghe non le ho mai avute, ma so già che in fondo io le ho già vissute. È passato tanto tempo e non so più chi siamo, ma so già che in fondo non ci assomigliamo. Perché sei come me, proprio come me, sei proprio uguale a me, proprio uguale a me. Perché sei come me, sei proprio uguale a me. La tua vita è un labirinto, cambi idea ogni tre ore, segui sempre il tuo istinto, ma non rinunci mai all'amore. No, non rinunci mai all'amore. Le tue storie così lunghe non le ho mai avute, ma so già che in fondo io le ho già vissute. È passato tanto tempo e non so più chi siamo, ma so già che in fondo noi ci assomigliamo. Perché sei come me, proprio come me, sei proprio uguale.